girone degli infami. Guardati le spalle mentre giri nei locali, per le strade, sui binari, pensa a tutti gli scenari. Ti colpiscono alle spalle, non uomini maiali. Ti assalgono senza un motivo buono, non conoscono l'onore, né uomo contro uomo. Ti tengono fermo e ti picchiano in coro. Riconosco il vostro odore nascosto nel sottosuolo. Coi guerrieri della notte versi l'abito buono. Ti tocca fare a botte ma nel branco sei da solo. Sei ferito e ti abbandonano al suolo. Al tuo capo abbiamo tirato la statuetta del Duomo. Uomo con coscienza da rivista, artista nella resistenza. Eri un coglione fascista, ora relegato alla lista dei mercenari. E ti sei ritrovato nel girone degli infami. Siamo persi nella nebbia delle strade, persa la via. Ignoriamo le coordinate nel girone degli infami. Solo persone ingrate, lasciate ogni speranza. Ogni speranza vuoi che entrate. Siamo persi nella nebbia delle strade, persa la via. Ignoriamo le coordinate nel girone degli infami. Solo persone ingrate, lasciate ogni speranza. Ogni speranza vuoi che entrate. Entro nel viale, la vista si offusca mentre il passo aumenta. Tutto è nero, il buio sale, do la mente spenta. Devo nascondermi dalle ombre che col tempo mi circondano, portandoti nel mondo dove parli e non ti ascoltano. Come se tu fossi un gioco controllato da comandi. Il loro scopo è di aumentare finte verità dei grandi. Farti credere così ciò che sia giusto o sbagliato, e che comporta di ignorare per le cause che hai famato. Sogno una vita che spunta questa distinzione. Provo odio su chi sputa, su chi si è creato il nome. Sono qui in azione contro chi è pronto a ignorarmi. Io dimostro quel che faccio, non cercare di cambiarmi. Fottutamente unico e comunico, non sparlo. Sono tutti quanti buoni, sia a scappare al primo sguardo. Ehi tu, ricorda bene questo volto, perché lascio passare sì, ma sappi che non scordo. Siamo persi nella nebbia delle strade, persa la via. Ignoriamo le coordinate nel girone degli infami. Solo persone ingrate, lasciate ogni speranza. Ogni speranza vuoi che entrate. Siamo persi nella nebbia delle strade, persa la via. Ignoriamo le coordinate nel girone degli infami.